cioè si descrive la realtà com'era. Porta Snese una volta era Porta di Cinese, Porta Snese. E i pioci, cioè le pulci. E c'era questo. E questo dialetto, questo linguaggio è diventato italiano, non so come ha fatto, ed è così, cioè il suono è quello, almeno io l'ho goduto per il modo in cui è scritto soprattutto, poi ovviamente mi ha appassionato la storia, però personalmente la prima volta che me l'ha fatto leggere, che era ancora un manoscritto, effettivamente ho detto cavolo, guarda questo come scrive. Poi fortunatamente ha trovato un editore illuminato, perché bisogna anche trovare quelli. È illuminista. E questo va a suo è danno. È post illuminista. Va bene. Ed è diventato il diavolo custode. Sì. Non so se avete altre curiosità, Parlate. Il libro è da leggere. Sì.